tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat di Firenze, siamo ora al quarto appuntamento del nostro notiziario anticlericale. Il primo fu sulle campane, il secondo sui crocifissi, il terzo sugli incidenti. In questo quarto appuntamento parliamo delle estorsioni, dei ricatti nella storia della Chiesa. E iniziamo dalla provincia di Chieti, dove un prete fu accusato di estorsione e nel lontano 1993. Questo è il primo mio ritaglio sui misfatti della Chiesa relativo ai ricatti. Passiamo poi al 1995, relativo al caso Orlandi. Sacerdote arrestato, aveva tentato un'estorsione ai danni del Vaticano. Passiamo poi al 1999. Prete estorceva il pizzo alle maestre della sua scuola. Siamo dal Corriere della Sera, appunto, dell'8 dicembre 99. A sacerdote avido sequestrati addirittura 1.300.000.000, certo Don Giuseppe. Estorsione all'oratorio. Siamo sempre al Corriere della Sera del 26 febbraio 97. Arrestato oratoriano di 17 anni. Con botte e minacce estorceva soldi ai propri colleghi di oratorio. E poi passiamo a Il Messaggero del 17 febbraio 2002. La famosa attrice Laura Antonelli fu truffata da 15 persone, tra cui c'erano appunto alcuni fanatici religiosi e, che l'avevano indotta a credere appunto che facendo una sottoscrizione per questo gruppo religioso, di cui faceva parte anche un prete, no? Avrebbe avuto chissà quali miracoli. Siamo nel campo dell'abuso della credulità popolare. Tassa sulle nozze, sposa denuncia il prete, cioè per tentata estorsione. Questo prete voleva dei soldi per darle l'autorizzazione a sposarsi fuori da Roma, in un'altra località che secondo la novella sposa sarebbe stata migliore. E quindi voleva addirittura 260 euro. La donna si incazzò moltissimo e lo denunciò ai carabinieri. Siamo ora al 2006. Sacrestano ricattava il parroco. Pubblico ministero chiede 6 anni. Praticamente avevano fatto dei video erotici, lui e il parroco, e poi il sacrestano, che come si sa guadagnano 4 soldi una cicca, ricattava il parroco per avere del danaro. Siamo al Corriere della Sera del 2007, settembre 2007. Arcivescovo di Siena indagato per estorsione. Gli inquirenti cercano contatti con le indagini di Firenze. Sarebbe una serie di trattative immobiliari. Da notiziario dell'UAR, Unione degli Atei e degli Agnostici, e veniamo a sapere nel 2011 che certo Don Sergio Gaburro è stato condannato a 3 anni e 4 mesi per aver estorto dei denari al direttore di una banca. Estorsione a luce rossa al Don, ma il video del ricatto non c'è. Il giorno del 13 novembre 2014 è un altro prete, non è quello di prima, è un altro che a causa delle sue avventure erotiche con video e si era cacciato nei guai, per cui era ricattato. A Trapani, prestazioni sessuali in cambio di asilo politico. Adesso estorceva soldi agli immigrati e se volevano il permesso di soggiorno dovevano soggiacere ai suoi desideri erotici. Siamo nel 2015. In Vaticano, cardinali sotto ricatto. Siamo sempre nel 2015. La verità di Balda, Monsignor Balda, sugli sponsor della Ciao Chi. Vatilix, la tela della Ciao Chi, obbedisci o lo dico al mio capo. E sempre ricattato era il Monsignor Balda, poi sono stati finiti tutti entrambi a processo, entrambi condannati. I prelati vaticani seguiti e fotografati, qui siamo nel 2017. Nuovi ricatti in Vaticano, le accuse della gendarmeria a Milone. a Torino, ex manager dell'ospedalino, Kölliker accusato di estorsione. Questo padre Cacciari, oltre che indagato per appropriazione indebita, lo è anche per estorsione. Siamo nel 2017. Bene, ringrazio tutti per l'attenzione e do appuntamento alla prossima puntata dove parleremo del fulmine nella storia della Chiesa. Grazie.